Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Bentrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, siamo all'ultima puntata di questa stagione di Personal Best, che tornerà prontamente a settembre, e chiudiamo, come si dice, insomma, in bellezza con due vice campioni del mondo di corsa in montagna. Francesco Puppi, bentornato. Ciao a tutti. E Cesare Maestri, benvenuto. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Allora, andiamo subito al dunque. Due campioni della corsa in montagna che giustamente lo scorso fine settimana si sono fatti una corsetta in montagna, appunto, ma non proprio una scampagnata, no? Cosa avete combinato, Cesare? Sì, praticamente lo scorso weekend abbiamo deciso di fare una sorta di record, partendo da Madonna di Campiglio e arrivando fino in vetta alla Cimatosa, che è la regina delle Dolomiti del Brenta. Siamo saliti su e scesi correndo il più velocemente possibile ed è stata una bellissima avventura. Quant'è arrivare su? Quanti chilometri sono circa e quanto dislivello c'è? Sono 16 chilometri, quindi in totale andare e tornare 32. E ci sono in totale 2200 metri di dislivello, salita e in discesa, quindi è una bella scampagnata, dai. Un po' come piace a voi. Francesco, com'è andata? È stato molto bello, per prima cosa per aver condiviso l'esperienza con Cesare e poi per aver corso in un contesto così spettacolare come quello delle Dolomiti di Brenta. La Cimatosa è quasi 3200 metri, quindi si tratta proprio di alta montagna. Ha offerto un po' tutti i tipi di terreno che la montagna ci può mettere di fronte, quindi è stato bello proprio perché abbiamo attraversato tantissimi diversi paesaggi, pendenze, terreni. Com'è nata questa idea? È partita un po' da entrambi, poi il luogo, la location è stata proposta da Cesare. È partita durante il lockdown, perché con la cancellazione di diverse gare, la mancanza di stimoli per degli agonisti come noi, abbiamo dovuto un po' cercare altri stimoli che non fossero nelle competizioni. Quindi è nata l'idea di questa FKT, diciamo, il Fastest Known Time, che è un po' l'anima, anche se vogliamo, del trail. E si tratta di compiere un percorso in velocità, di cercare di fare un record o comunque di fissare un tempo di riferimento per poi magari sfidare anche i propri amici, comunque i compagni. Ne abbiamo visti un po' di queste cose ultimamente. Sì, tantissimi, soprattutto anche qua in Italia, dove mancava un po' la tradizione, si sono dati ai record, abbiamo visto Magnini con la Presanella e l'Ortles, abbiamo visto Nadir Magué che ha fatto il Gran Paradiso, insomma tanti sono dati da fare e ce ne saranno di sicuro ancora. In mancanza di gara bisogna un po' arrangiarsi, diciamo. Sì, penso che sia stato un stimolo positivo da parte di tanti atleti. E quello che mi piacerebbe fare è di rilanciare la sfida, perché se qualcuno volesse andare a provare lo stesso percorso, io sarei curioso di vedere cosa combinano. Lo facciamo io e Ivana. Sì. Cosa ridi? Ci mettiamo 10 ore, ci mettiamo. Però insomma, nel nostro. Ma Cesare, come si prepara una sfida di questo tipo, anche i tempi, insomma, col lockdown e tutto? Diciamo che io conosco molto bene la zona perché sono cresciuto lì vicino, quindi li conosco a memoria quei sentieri. Però comunque lì, come ha detto Francesco prima, siamo in alta montagna, quindi prima di tutto bisogna rispettare i tempi della montagna e le condizioni. Praticamente niente, una volta deciso, io sono andato la prima volta in solitaria più di un mese fa a provarla, ma in effetti le condizioni non erano troppo buone e nello scendere mi sono anche procurato una piccola distorsione al ginocchio e quindi abbiamo deciso di aspettare un po' per la neve, quindi sì correndo nella neve in discesa capita, mi è sfondato un piede, mi è mancato l'appoggio e mi si è un po' girato il ginocchio. Niente, dopo ci siamo sentiti anche con delle persone che conosco che hanno i rifugi lì ci hanno aggiornati un po' quando le condizioni sono migliorate. Poi Francesco è salito da me un weekend, siamo okay. andati a provare tutto il percorso e poi niente, poi settimana scorsa l'abbiamo fatto a tutto gas, diciamo, e conoscevamo bene un po' la parte sotto che era molto da correre, e la parte centrale un po' più iniziava a diventare un po' più tecnica e la parte in alto in cui era praticamente alpinistica perché ci siamo anche legati, imbragati, ci ha dato una mano una guida alpina e quindi... Oh. È stato molto vario e molto divertente. Ma è un percorso noto o più o meno ve lo siete inventati? No, la cima è una cima molto famosa, per le persone che vanno in montagna è molto conosciuta. Diciamo che in genere si può salire da due versanti. Salendo da Madonna di Campiglio le persone partono a piedi da Vallisinella, si chiama il posto che è a 5 km da Campiglio, e tante volte salgono a dormire la sera prima in un rifugio che è prima della cima. Invece noi l'abbiamo fatta, beh, ovviamente in giornata e siamo partiti proprio dal paese, che quella magari è una cosa insolita, però ci piaceva legare anche il paese alla cima perché si chiudeva un po' il cerchio. Francesco, ho visto i filmati, eri sempre un po' dietro a Cesare, andava troppo forte? Sì, Cesare era quello che soprattutto all'inizio tendeva a spingere parecchio, quindi mi ha messo parecchio alla frusta, diciamo. Poi lui sul tecnico è notoriamente più bravo di me, quindi diciamo che per me è stato molto impegnativo. Ecco. E io forse ero un po' più abituato alla distanza, essendo che Cesare è più legato alle specialità classiche della corsa in montagna, io invece quelle un po' più lunghe. Perciò sul finale mi sono un po' rifatto sotto ed ero io forse quello che spingeva un po' di più, però alla fine ci siamo un po' compensati, diciamo. E si è accesa un po' di sfida anche, insomma, dai. Sì, no, in maniera positiva. Amichevole. Perché sì. Poi per fare il tempo è necessario un po' spingersi a vicenda e incitarsi e aiutarsi, quindi è stato positivo. Ma avevate in testa un tempo di riferimento? Sì, più o meno sì, avevamo fatto delle previsioni e direi abbastanza precise sulla base della prova che avevamo fatto. Rispetto a queste previsioni siamo risultati un pochino più veloci, soprattutto perché nella parte più tecnica siamo riusciti ad essere più rapidi. Un po' grazie all'aiuto della guida alpina che ci ha permesso di superare una parete di circa 40 metri in grande velocità e quindi gli abbiamo guadagnato un po' di tempo. Poi le condizioni della neve sono migliorate rispetto a quando l'avevamo provata, quindi anche questo ci ha permesso di essere un po' più veloci. Alla fine abbiamo guadagnato una decina di minuti sul tempo previsto, che era di 3 ore 40, abbiamo fatto 3:28:26. Nonostante la tua lentezza, insomma. Ti sta provocando, Francesco, oggi è provo. Il mio bersaglio, sì. Vabbè, quindi... dai, alla fine ho messo anche un po' in luce i miei lati deboli, perché io comunque so che devo migliorare su alcuni terreni ed è stata una sfida prima di tutto con me stesso, perché mi ha messo di fronte a delle difficoltà che non immaginavo, insomma, che il fatto anche per esempio di superare una parete in stile alpinistico è una cosa nuova, diciamo. Andare oltre i miei limiti e soprattutto farlo così in velocità è stata una cosa nuova, quindi mi è piaciuto molto anche questo aspetto. Voi non vi siete mai fermati? Comunque, insomma, nei 2 mesi di lockdown anche voi non siete potuti andare in montagna e far nulla, è stata difficile, eh? Troppo. E come vi siete allenati? Cesare. Sì, purtroppo è stata molto dura per noi, cioè penso per tutti, ma per uno che come me o come Francesco, che gli sembra la normalità magari uscire, andare in bici, andare a correre e fare queste cose, era veramente un po' pesante. Però io personalmente sono riuscito a allenarmi, io ho un tapirulan a casa, Sarda, una cicletta un po' vecchiotta, ma dai, tutti i giorni ho continuato abbastanza ad allenarmi, neanche tanto per il fatto di fare degli allenamenti e un programma, ma proprio per il fatto che ne avevo proprio bisogno, perché mi aiutava anche a svagare un po' la mente, a non pensare sempre magari alle notizie che si sentivano in quei giorni, che erano veramente angoscianti, quindi mi ha dato una grande mano, soprattutto per rimanere positivo e vedere il futuro in maniera positiva. Cesare, nel frattempo la corsa in montagna cerca in qualche modo di ripartire, no? Quali saranno i prossimi impegni, almeno i tuoi, i vostri, sì, insomma? Sì, sì, adesso fortunatamente si sta ripartendo. Noi correremo tutti e due settimana prossima, inizio agosto, a Malonno. Ci sarà, è il paese della corsa in montagna, ci sarà un chilometro verticale e un trail, il Fletta Trail, e quindi ci ritroveremo un po' lì a sfidarci. Dopodiché ci sarà a fine agosto, verso il 22 e il 23, il Memorial Stellina, che sarà valido come campionato italiano, e poi a settembre-ottobre comunque sono in programma delle belle gare, e noi sicuramente speriamo che vengano confermate e che le cose vadano bene. Quindi staremo a vedere, noi abbiamo solo voglia di rimetterci in gioco e di ricominciare a gareggiare. Quindi dai, speriamo che vada tutto bene, ma sono certo che sarà così. Eh sì, perché infatti lo diciamo spesso in questo periodo, io e Silvio, è difficilissimo, no? Tenere sempre alta la motivazione quando non c'è un obiettivo. Sì, sì, quello certamente. Poi è un po' soggettivo, però io penso di essere molto agonista, e quindi senza l'obiettivo di una gara o comunque di un obiettivo personale legato a una prestazione sportiva con un tempo, con una distanza, vado comunque volentieri ad allenarmi, però mi manca un po' quella voglia di fare magari quella fatica che sei disposto a fare solo se hai un obiettivo, o alcuni sacrifici che senza magari, non so, che per un campionato mondiale o un campionato europeo sono disposto a fare, però magari solo per la passione, a volte anche magari, non so, andare a correre al mattino presto prima del lavoro, a volte magari dormire anche volentieri. Perché anche tu come insomma, Francesco, lavori, no? Tu sei ingegnere. Sì, sono ingegnere energetico e lavoro in un'azienda di Trento, si chiama Eliopolis, e mi occupo di efficientamento energetico, energie rinnovabili. Ah, perfetto, insomma, combini la montagna, insomma, l'amore per la montagna e il lavoro in qualche modo. Esatto, sì, sì, cerco di farlo. E quindi cerchi di conciliare anche tu, insomma, il lavoro con lo sport in qualche modo, per cui svegli all'alba, la sera si torna. Sì. Per... sì, sì, dai, cerco di farlo, ma alla fine non è impossibile. Poi sei giovane. Anche sì, sì. No, anche la mia azienda, per quello, da quel punto di vista, sono abbastanza flessibili e quindi mi danno sicuramente una mano. E poi, come ho detto prima, quando uno ha tanta voglia, tanta motivazione, è disposto a fare anche dei sacrifici. Sì, sì, cioè non li considera effettivamente sacrifici se li fa volentieri. Poi certo. Insomma, quando vinci come fai tu, insomma, quando le cose funzionano. Sì, dai, speriamo di vincere ancora qualcosa, dai. Francesco, parlando di vittorie, se non sbaglio tu ultimamente hai vinto una gara in Puglia, no? Che gara è stata? È stata una gara quasi simbolica dal mio punto di vista, perché è stata proprio la gara della ripartenza, la prima gara federale non stadio, diciamo, svolta al di fuori della pista. È stato il trofeo Ciolo a Gagliano del Capo, organizzato da Luca Scarcia, che aveva già organizzato l'anno scorso i mondiali di corsa in montagna per le categorie master, in un contesto veramente interessante, perché si parte dal Ponte Ciolo, che è una località sulla scogliera dell'estremo del Salento, quasi a Santa Maria di Leuca, e praticamente il tracciato si svolge tutto sulla scogliera, è molto nervoso, molto tecnico, la lunghezza è di soli 5 km, ma sono molto molto intensi, si corre tra rocce e macchia mediterranea, e l'arrivo è posto nel paese di Gagliano del Capo, e diciamo che è stata una gara un po' sperimentale, perché infatti. Vabbè, è stata a cronometro prima di tutto, infatti cercavo di capire un po' com'era gestita la questione anche del distanziamento sociale, appunto, la gara, visto che tutte le gare cercano di ripartire e cercano delle soluzioni, insomma, in qualche modo sono delle prove. A fine giugno le partite in linea non erano ancora permesse, quindi dovevamo tenere la mascherina fino a pochissimi secondi dal via e rimettere la mascherina appena dopo l'arrivo. Non sono stati previsti spogliatoi né depositi borse, bisognava ritirare il pettorale rispettando il distanziamento, c'era un'area di partenza recintata nella quale ci si doveva mettere in fila distanziati prima di accedere proprio all'area di partenza, E quindi diciamo tutto si è svolto secondo un protocollo abbastanza rigido, ma che ha reso possibile almeno rivivere un pochino lo spirito della competizione. Sì, manca forse un po' tutta la festa di contorno, no? Perché devi fare tutto velocemente, sia la partenza che l'arrivo. Sì, sì. Devi togliere il disturbo. Devi togliere il disturbo velocemente. C'era gente a guardare la gara, o anche quella era comunque, cioè non potevano esserci le persone? Beh, diciamo che i passanti, la gente che si trovava lì, per forza di cose, cioè, quelli che sono capitati lì hanno assistito alla gara, però diciamo ufficialmente il pubblico non poteva esserci, sì. E non ci sono neanche state delle premiazioni ufficiali. E quello che riflettevamo anche con Cesare, con tanti nostri amici durante il periodo del lockdown, quando si pensava alla ripartenza delle competizioni o comunque dell'attività agonistica, era proprio l'aspetto umano del rincontrarsi, del gareggiare, del riabbracciarsi dopo l'arrivo, che ancora manca purtroppo, ed è quello che forse più, cioè una delle cose che più manca. Ci manca delle gare. Al di là di tutti i protocolli e delle regole che ci possono mettere, forse questa cosa è quella che più è difficile da recuperare, però speriamo che si vada verso questa direzione. E Cesare, in chiusura, parlavamo di calendario, le prossime gare, ci saranno anche i mondiali in programma a Lanzarote a novembre, no? 13-14 novembre, se non sbaglio. Sì, esatto. Dai, è il nostro grande obiettivo, il grande sogno di quest'anno, visto che e gli altri grossi obiettivi sono un po' saltati e quindi vediamo cosa succederà. Noi in ogni caso ci prepareremo e arriveremo pronti per quella data, e poi l'occasione è bella perché è un posto bellissimo, è un mondiale e quindi niente, siamo carichi, ma però c'è sempre quel grosso punto di domanda di cosa succederà, che probabilmente nessuno lo sa, chi vivrà vedrà. Perché come dicevamo prima fuori onda, il problema è il fatto che tutte le nazioni devono potersi confrontare allo stesso livello, per cui magari certi paesi sono bloccati in questo momento e non si possono allenare, per cui è un po' quello che è successo per le Olimpiadi, insomma. Certo, infatti per trovarsi tutti nella stessa condizione alla partenza. Anche, quello è un sicuramente ci saranno tante cose da valutare, però beh, non spetta a noi fare queste valutazioni. Sì. Però so che anche con i nostri tecnici dicevano che forse un mondiale potrebbe essere quasi più gestibile che magari una semplice gara. Sì. Perché comunque hai un controllo molto forte sulle nazioni che potrebbero fare dei tamponi in partenza e in arrivo. È un numero limitato perché ogni nazione può portare solo pochi atleti, e quindi con magari un protocollo anche che potrebbe essere rigido, però si potrebbe organizzare. Poi bisognerà vedere cosa succede, perché quello è il punto primo. Speriamo che vada tutto bene e speriamo di fare questo mondiale. E poi nel caso ci sono due primi posti da andare a prendere, no? Visto i secondi posti entrambi l'anno scorso. Se per il secondo posto non si parte più. dai. Comunque, vedremo. Per la serie, noi ci arriveremo al meglio. Chiamatemi solo se posso vincere. Grazie Francesco, allora buone vacanze. Grazie a voi e buone vacanze a tutti. E grazie Cesare, a presto. Grazie a voi, a presto, ciao a tutti. Noi per questa stagione ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica 6 settembre per raccontare come sempre il mondo della corsa in tutte le sue declinazioni. Nel frattempo però per agosto non vi lasceremo soli, perché ogni domenica alle 6.30 alle 15.30 ci sarà una sorta di, come dicono quelli bravi, spin-off di Personal Best, in cui andremo alla scoperta delle gare su strada e non solo più famose e antiche d'Italia. Un racconto fatto di storie e protagonisti dell'atletica italiana. Buona domenica a tutti. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di aruba.it.